voi. Bentornati amici di Web Radio Luzzi. Web Radio Luzzi in collaborazione con il gregge di Pinuzzo in mutanna cacata presenta un servizio per inculare il cittadino. Due politici, due schieramenti, ma una sola poltrona. Chi sarà il vincitore? Va in onda ora Capate, il ring della politica calabrese. Salve. Questa sera si sfideranno due personaggi che hanno fatto il salto della quaglia in modalità inversa. Per il PDL, alla mia destra, Giacomo Mancini Junior. Per il PD, alla mia sinistra, l'onorevole Franco Covello. Iniziamo da quest'ultimo. Entrambi avete cambiato partito e schieramento. Perché? Scusami, ma Ibrahimovic che è passato a Juventus all'Inter e poi a Roma, non ci ha detto una cosa. E allora che gli ha detto trovare su bordello i cazzi che state facendo? Tu? E lei, signor Mancini Junior? Chiamo io, che mi aspettano per Ferragosto e che binge binge. Buonasera, sono Giacomo Mancini Junior. Ho deciso di aderire al Popolo delle Libertà per l'azione riformista di questo governo rappresenta. È un faro per tutta la politica. Non faro per buttare su pagina, sì, andiamo. Covello, freni la ciuccia e si limiti a rispondere alle mie domande. Cosa ne pensate della mancanza di giovani al comando della politica calabrese? È forse una lobby la vostra? Perché non fate nulla per i giovani? Non dimentichi che io sono giovane. Sì, tu sei giovane, se sì. Tu sei giovane, signor Costantino, che lo tuo grande fratello, sì. Veramente era di uomini e donne. Vabbè, un guardoppio in saluto, no? Comunque i giovani li faccio crescere in politica. E c'è una particolare che fa 435 anni, quando andrò in pensione mi sostituirà questa ragazza. Si chiama Stefania Covello. Ma è sua figlia? Ebbene, mo che bumo, solo perché fate Covello il cognome è casualmente figlia mia. Un po' come con me, Questi signori è una dittatura, allora. Io non ci sto in questa dittatura. Buonasera, sono Giacomo Mancini Junior. Ho deciso di aderire al popolo. Madosca, ancora case, e cangiatisco. E poi voglio aggiungere che io mi sono portato qui per parlare dei miei successi immensi. E ho fatto l'infrastruttura. Quale? E ne ho fatte tanto, ma non è che mi possa ricordare tutto. Pensate che quando Dio creò la terra, in 6 giorni e il 7° giorno si posò e l'ottavo giorno mi disse: Franco, crea le infrastrutture. Mancini Junior, lei come ribatte? Io posso aggiungere una cosa, presentato. Noi con l'aggiunta lo ieri abbiamo creato tanti cantieri. Sta perché la bellezza della Calabria è il sole, la sila, il mare, ma quando su cazzate. E invece il presidente della giunta regionale, un caposquadra di su un catrammato, ha aperto due attrezzi autostrade e uno è uno scandalo proprio. Sono Giacomo Mancini Junior. Ho scelto di andare. Ma rotico, io non ho usanzo, mo. Era madonna, ma prendetelo a capo, Giacchino, cacciatemelo davanti. Bene, Capate. Vieni qua, continua la colluttazione. Vieni qua. Arrivederci. Alla prossima settimana. E ma basta, mi segno rotto pure io, che cazzo.